Anima Jazz, un programma di jazz tradizionale e contemporaneo ideato e condotto per voi in studio da Bruno Pollacci. Buonasera a tutte le mie ascoltatrici e i miei ascoltatori, un grande abbraccio da Bruno Pollacci. Siete all'ascolto di Anima Jazz numero 681. Una serata che parte subito all'insegna del buon jazz italiano di qualità. Sto parlando di un disco che ha realizzato l'ottimo trombettista Andrea Sabatino. Andrea Sabatino ha realizzato per la 12 Lune Records un bel CD intitolato Bea, e nel quale figurano non solo lui alla tromba e al flicorno, ma anche il grande Gaetano Partipilo al sax alto, al sax soprano, Ettore Carucci al pianoforte, Francesco Angiuli al contrabbasso e Giovanni Scasciamacchia alla batteria, tutti numeri uno del jazz italiano che vivono in grande complicità questo progetto discografico, dal quale noi ci potremo ascoltare subito una composizione originale di Andrea Sabatino intitolata Joking with Jazz. Buon ascolto quindi con Andrea Sabatino, Another Quintet. Bene, questa era la musica del trombettista Andrea Sabatino. Andrea Sabatino che ci ha dato prova della sua bravura tecnica, del suo swing, delle sue capacità compositive. Questa era una sua composizione originale intitolata Joking with Jazz. È un gioco sicuramente molto vivace che mette in evidenza anche le capacità solistiche di ogni membro del gruppo, grande Gaetano Partipilo, ma tutti i musicisti si esaltano in questo vivace pezzo dove l'energia e la complicità pulsante del gruppo la fa da padrone. Ricordo la formazione: Andrea Sabatino alla tromba e flicorno in questo progetto discografico, che vede accanto a lui anche Gaetano Partipilo al sax alto e sax soprano, Ettore Carucci al pianoforte, Francesco Angiuli al contrabbasso e Giovanni Scasciamacchia alla batteria. Ricordo che il CD è intitolato Bead, è pubblicato dalla 12 Lune Records. Adesso proseguiamo con un ottimo chitarrista. Si tratta di Roberto Zecchini, un chitarrista di grande esperienza che ha sempre inteso il suo viaggio musicale come un'avventura interessante, capace di far scoprire nuovi paesaggi all'orizzonte, viverli con il gusto proprio della scoperta e del momento per momento, del viaggio alla scoperta delle emozioni. Un bellissimo CD in solo per chitarra e questo nuovo appena pubblicato intitolato Solo con chitarra volgare. Il pezzo che vi voglio far ascoltare è una composizione originale di Roberto Zecchini intitolato Sant'Arcangelo dell'Altra Romagna. Buon ascolto quindi con il chitarrista Roberto Zecchini. Thank you. ci siamo ascoltati il chitarrista Roberto Zecchini. Roberto Zecchini che ci ha presentato questa sua composizione originale intitolata Sant'Arcangelo dell'Altra Romagna, tratta dal suo ultimo CD Solo con chitarra volgare, nel quale Roberto Zecchini con la sua chitarra in solo riesce a riempire di sonorità gradevolissime tutto il progetto discografico, rendendo gradevole l'ascolto e con una sonorità molto intensa ed originale che chiaramente si affida all'improvvisazione, all'imprevedibilità del jazz, ma non solo, e va a pescare atmosfere dalla world music con grande disinvoltura, con grande proprietà di linguaggio, con grande curiosità, riuscendo ad offrire un progetto discografico veramente di qualità e stimolante. Dopo Roberto Zecchini con il suo progetto in solo con la sua chitarra, abbiamo il momento di un batterista che è anche compositore, che si chiama Devin Gray e che ha realizzato un interessante CD intitolato Relative Resonance. L'ha fatto insieme al sassofonista e clarinettista Chris Speed, insieme al pianista Chris Davis e al bassista Chris Tordini. Tutti Chris. Chris Speed, Chris Davis e Chris Tordini. Si vede che per una sorta di magia Devin Gray riesce ad attirare a sé collaboratori con questo nome di battesimo Chris. Il pezzo che vi voglio far ascoltare stasera è una composizione originale di Devin Gray ed è proprio il pezzo che dà il titolo all'album, quindi intitolato Relative Resonance. Buon ascolto quindi con Devin Gray. Thank you. Ci siamo ascoltati la musica di Devin Gray. Devin Gray, che è un batterista e compositore che ha realizzato questo nuovo CD intitolato Relative Resonance, dal quale noi ci siamo ascoltati proprio il pezzo che dà il titolo all'album e che è una composizione originale di Devin Gray, Relative Resonance. Ricordo che insieme a Devin Gray, che è appunto il leader del gruppo alla batteria, abbiamo il sassofonista e clarinettista Chris Pitt, il pianista Chris Davis e il bassista Chris Tordini. Il pezzo, come avete sentito, è ricco di tensioni, ricco di una bella dinamicità e ci ricorda i fasti del grande bop, anche se la composizione ci riporta anche ai nostri tempi, quindi è un pezzo molto equilibrato tra il rispetto della grande tradizione bop e nello stesso tempo la contemporaneità e l'urgenza di esprimere anche il proprio tempo. Andiamo avanti dopo Devin Gray con Pippi Di Monte, Pippi Di Monte and the Overcrowed Duo. Si tratta di Pippi Di Monte al contrabbasso con il batterista Nicola Benetti e il chitarrista Alessandro De Lorenzi. Il CD in questione è The Morning Session, Morning Session, dal quale noi ci ascolteremo Bananology. Buon ascolto quindi con Pippi Di Monte and the Overcrowded Duo. Thank you. Veramente niente male questo gruppo Pippi di Monte insieme al Lower Crowed Duo. Grazie al studio Sound Lab ho ricevuto questo bel CD che mi ha permesso di conoscere questa formazione molto interessante di jazz funky, con una bella struttura, una bella forza espressiva, una bella grinta, un bel approccio e anche con piacevoli assoli vissuti sempre con capacità notevole sia sul piano tecnico sia sul piano improvvisativo, con dei bei fraseggi e con una bella forza espressiva. Ricordo la formazione che vede Pippi di Monte al basso, Nicola Benetti alla batteria e Alessandro De Lorenzi alla chitarra. Una formazione veramente di tutto rispetto che con questo CD Morning Session si pone all'attenzione con sicurezza e con una propria via al funky. Il pezzo che ci siamo ascoltati era una composizione originale intitolato Bananology. Dopo Pippi di Monte and the Overcrowed Duo è il momento di un'orchestra, quella di Bob Mazurek. Bob Mazurek, Exploding Star Orchestra, che dal CD Galactic Parables Volume 1, pubblicato dalla Cuneiform Records, ci faranno ascoltare Awaken the World. Buon ascolto quindi con Rob Mazurek, Exploding Star Orchestra. Galactic Parable number 41, a luxury I cannot afford. The return is not worth the effort. The world is not yet ready. The world is not yet awake. Awaken the world, awaken the move. A luxury I cannot afford. The return is not worth the effort. The world is not yet ready. The world is not yet awake. Awaken the world, awaken and move. A luxury I cannot afford. The return is not worth the effort. The world is not yet ready. The world is not yet awake. Awaken the world, awaken and move. A luxury I cannot afford. The return is not worth the effort. The world is not yet ready. The world is not yet awake. Awaken the world. Awaken the world. Awaken. Bene, questa era la musica di Rob Mazurek, un'orchestra, quella che dirige, nella quale suona molto particolare. Rob Mazurek, Exploding Star Orchestra, un'orchestra contemporanea che ha le sonorità del nostro tempo, con punte di dinamismo che ci riportano veramente alla contemporaneità, nello stesso tempo con la coralità tipica della big band, ma una big band veramente appunto immersa nelle tensioni, nelle atmosfere contemporanee. Il CD è intitolato Galactic Parables Volume 1, pubblicato dalla Cuneiform Records, e noi ci siamo ascoltati una composizione originale intitolata Awaken the World, veramente molto stimolante, anche con interventi vocali, avete sentito, e con delle tensioni solistiche veramente stimolanti. Dopo Rob Mazurek, Exploding Star Orchestra, è il momento di Tania Giannulli, una pianista veramente molto brava, di grande sensibilità, che ha realizzato per la Rattles Records un CD intitolato Transcendence. L'ha fatto insieme a Guido De Flavis al sax, Alexandros Botinis al violoncello e Solis Barchi alle percussioni. Il pezzo che ci ascolteremo è una bella interpretazione di Sundance. Buon ascolto con Tania Giannulli. Thank you. Bene, ci siamo ascoltati la musica di Tania Giannulli, pianista, leader di questo interessantissimo gruppo che vede Guido De Flavis al sax e poi lo straordinario Alexandros Botinis al violoncello, questo personaggio che è anche un grafico, pittore, un artista a 360 gradi, grandissimo musicista, veramente straordinario, Solis Barchi alle percussioni. Il gruppo ha realizzato questo CD intitolato Transcendence, pubblicato dalla Rattle Records, dal quale ci siamo ascoltati Sundance, un pezzo fortemente condizionato dalla world music, dalla musica folk. Nello stesso tempo mantiene la freschezza dell'improvvisazione jazz e nello stesso tempo una carica appunto solare, così come il titolo ci ricorda, la danza del sole. Veramente un bel pezzo che mette in evidenza la grande musica di Tania Giannulli e la preparazione straordinaria dei musicisti che l'accompagnano in questo progetto discografico davvero interessante, di grande forza espressiva e anche di valore culturale notevole. Adesso andiamo avanti con Malija. Si tratta di un trio che vede Mark Lockhart ai sax, Jasper Horby al clarinetto basso e Liam Noble al pianoforte. Hanno realizzato un CD per la Edition Records intitolato The Day I Had Everything, e dal quale noi ci potremo ascoltare una loro composizione intitolata Unknown. Buon ascolto quindi con il trio di Malija. Thank you. Bene, ci siamo ascoltati la musica di Malija, questo gruppo formato da Mark Lockhart ai sax, al clarinetto basso, poi abbiamo al contrabbasso Jasper Oibi e poi al pianoforte Liam Noble, un trio che per la Edition Records ha realizzato questo nuovo CD intitolato The Day I Had Everything, un CD dal quale noi ci siamo ascoltati una composizione intitolata Hank No, musica di impostazione intellettuale con dei bei fraseggi, con una particolarità creativa interessante, stimolante, con delle sovrapposizioni dei tre membri che sono sempre molto calibrate, sono sempre molto stimolanti e interessanti per la loro costruzione, per la loro eleganza e raffinatezza. Lasciamo Malija e ritorniamo in Italia con Simone Graziano. Simone Graziano è un ottimo pianista. In questo nuovo progetto discografico intitolato 35 e pubblicato da Awand, è con la sua formazione Frontal. Simone Graziano al piano, Fender Rhodes ed elettronica, David Binney al sax alto, Dan Kinzelman al sax tenore, Gabriele Evangelista al contrabbasso, Stefano Tamborrino alla batteria. Si tratta di musicisti, come avete sentito, di prim'ordine, molto conosciuti, di grande valore tecnico. Insieme stasera ci faranno ascoltare una composizione originale di Simone Graziano intitolata Window on a Better World. Buon ascolto. Thank you. Bene, questa era la musica di Simone Graziano, un bel CD, questo 35, pubblicato dalla Awand, con delle composizioni originali di Simone Graziano, veramente molto intense, che colpiscono per l'evocazione, per la poesia, per l'intensità. Il gruppo è formato da Simone Graziano al pianoforte, al Fender Rhodes, all'elettronica, David Binney al sax alto, Dan Kinzelman al sax tenore, Gabriele Evangelista al contrabbasso, Stefano Tamborrino alla batteria. Un gruppo di straordinari musicisti che in ogni occasione fanno risaltare la loro professionalità, la loro qualità, la loro capacità di vivere l'ensemble con grande complicità interiore, e nello stesso tempo un ensemble che sa offrire delle performance personali sempre di altissimo livello. In questo pezzo che ci siamo appena ascoltati, intitolato Window on a Better World, una composizione originale di Simone Graziano, abbiamo potuto apprezzare una tensione crescente dopo i primi momenti molto morbidi, molto delicati, poetici, fino alle tensioni estreme dell'ultima parte del pezzo, nel quale si evince anche proprio una compattezza di sonorità all'interno di questo ensemble di grande professionalità, di grande qualità. E siamo arrivati all'ultimo pezzo della serata. A proporcelo sarà un'ottima artista che si chiama Francesca Tandoi, un'ottima pianista, ma non solo, anche una cantante che ho avuto tra l'altro il piacere proprio di conoscere e di ascoltare all'ultimo Lucca Jazz Donna Festival. Stasera la potremo ascoltare dal suo ultimo CD intitolato Something Blue, accompagnata da Franz van Goest al basso e Fritz Landesbergen alla batteria. La composizione originale che ci ascolteremo è proprio quella che dà il titolo all'album, e quindi Something Blue. Buon ascolto quindi con Francesca Tandoi. Questa era la musica di Francesca Tandoi, un'ottima pianista, come dicevo prima, anche una bravissima cantante, ma soprattutto una grande pianista con grande verve, un'energia straordinaria, grandissima tecnica e sensibilità musicale che viene espressa in ogni pezzo di questo bellissimo CD, un CD che ricordo ancora una volta si intitola Something Blue. Noi ci siamo proprio ascoltati il pezzo che dà il titolo all'album, una sua composizione originale vissuta insieme a Franz Van Goetz e al basso e a Fritz Landesbergen alla batteria. Con questo pezzo si conclude anche la 681esima puntata di Anima Jazz. L'appuntamento è a giovedì prossimo. Ciao ciao a tutti da Bruno Pollacci e da Anima Jazz.